Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. Eccoci qua, ci siamo e siamo ancora qua. E oggi è venerdì, ma come mai? Io di solito trasmetto al mercoledì e stasera venerdì Rock Wave. Marco, stasera è solo in regia, Marco Borgato ha deciso di concedere lo spazio a dei musicisti che sono venuti a trovare dopo un anno e mezzo, Marco, circa. Sì, no, anche meno, anche sarà meno. Un annetto, era febbraio mi pare. Esattamente, no? Marzo, sì, febbraio. Sempre in inverno, fa bene l'inverno ai Rastis, vero Osvaldo, cosa dici? Ci troviamo bene in inverno. Vi trovate bene in inverno. Stasera abbiamo i Rastis, questo è Rock Wave, chiaramente un programma dal vivo, stasera dalle 22.30 fino alle 24, direttamente per presentare il nuovo disco dei Rastis, un nuovo che è uscito abbastanza velocemente rispetto al precedente. Sì, è un disco... Dovrebbe essere arrivato anche Stefano. Istantaneo, nel senso che no, avevamo già in programma di fare due dischi a distanza molto ravvicinata o comunque a una distanza che di solito nei tempi discografici di oggi non è così rapido. Vero. Avevamo molte canzoni, molte altre sono nate strade facendo e poi insomma le occasioni capitano, gli incontri, le collaborazioni eccetera. Tante collaborazioni, le vostre sono sempre tante, piene, sì. Belle collaborazioni. Sì, non per il gusto di farle, ma con le persone giuste, ecco. Quindi ci capitano le persone giuste, fondamentalmente amici o persone che seguiamo da tempo, che frequentiamo da tanto. E in Move Along c'era Cristina Donà, c'era Roby Zonka e altri. Per Wild Dogs, che è il nostro nuovo album, abbiamo allargato il tiro sull'Irlanda, sì, diciamo. Siamo andati all'estero praticamente. Sì. Ci sono tre canzoni scritte insieme a Andy White, una prodotta anche in studio con Andy White, e due canzoni invece con Mary Coughlan alla voce solista, che è una straordinaria cantante irlandese che conosciamo da tempo e che però pensavamo molto lontana dal nostro mondo musicale. Non era così. Non era così in realtà, beh, insomma, poi avremo modo di parlarne, certo, approfonditamente. A me piace notevolmente che sia tornato, cioè suona spesso e volentieri in Italia, però è stato un po' messo da parte, si è sentito poco Andy White praticamente. No, beh, lui viene spesso in Italia e c'è da dire che quel tipo di musica cantautorale che lui poi negli ultimi anni ha inseguito molto una forma canzone quasi pop, direi. Sì, è vero. Lo ha un po' allontanato dallo zoccolo duro dei fans, quelli del folk, della prima ora, del nuovo Dylan irlandese. Sì. Però Andy White è veramente uno, ha ricevuto premi in tutto il mondo per la qualità letteraria delle sue canzoni, ha scritto poesie, scrive romanzi, ha lavorato con gente come Peter Gabriel, con John Leckie, che è il produttore dei suoi ultimi dischi. John Leckie, per dirne uno, era il tecnico che stava coi Pink Floyd ai tempi di Atom, Earth, Mother. Dobbiamo sollevarci tutti Metal, i piedi allora. Quei dischi lì. John Leckie ha prodotto OK Computer dei Radiohead. Incredibile, cioè, incredibile. E nell'arco della storia, cioè ogni 10 anni John Leckie produce un capolavoro del rock. Ed è il produttore degli ultimi album di Andy White. Quindi insomma è uno che... Poi in Australia ha lavorato tanto con i fratelli Finn, che sono dei Crowded House. Certo. Che tutti ricordano in Italia per Alta Marea di Venditti. Esatto, ti vedo preparatissimo sì. Anche su cose piuttosto oscure. Ecco così. Sì, abbiamo lasciato a casa un po' gli altri Rastis, li citiamo gli altri Rastis. Sì, come dimenticarsi di Dario Filippi al basso, Paolo Guerini alla batteria, Massimo Piccinelli alle tastiere, più Rastis onorari direi Giada Salem al violino, che sempre più frequentemente si unisce a noi. E poi nel disco abbiamo altri ospiti, c'è Veronica Sbergia che ha voce meravigliosa, bravissima, che canta lei con i Red Wine Serenaders di solito, ma è una nostra amica da tanti anni e ha fatto i cori e cantato in diversi pezzi dell'album. Poi c'è Elena Vittoria che canta, una cantautrice bergamasca di cui si sentirà parlare molto, credo, perché ha fatto un disco nuovo che uscirà tra poco, molto, molto interessante. Bene. E poi Ilaria Scattina che vocalizza su un pezzo, Teo Marchese alla batteria, Paolo Filippi alla chitarra, Roby Zonka ospite in un altro pezzo. Insomma, non ci siamo fatti un bel gruppo. Non ci siamo fatti mancare un bel gruppo niente. Di amici, vero Osvaldo, cosa dici? E poi tutta gente che non si fa pagare, insomma. Ah, è quello importante. Importante la, è quello. La prima prerogativa di suonare con i Rastis. Alta qualità gratis al massimo. ho capito, alta qualità grazie al massimo, giusto. Massimo. Bisogna risparmiare le cose, bisogna, se c'è la possibilità si può portare avanti il discorso. Ma poi lo fanno volentieri, no? Certo. Ma sto al di là di tutto, comunque è l'amicizia che ci lega da tanto tempo, insomma. È un bel gruppo, cioè suonare in gruppo, una volta si usava dire le comuni, ma è bello così musicalmente. Sì, perché ci si diverte, è quella che è la cosa, parlavamo prima in macchina venendo qui, che molti gruppi italiani non hanno capito, gli americani suonano per divertimento, non c'è l'antagonismo, infatti non si vedono gruppi di tre chitarre soliste in Italia. È vero questo. Perché c'è l'antagonismo. Esatto. E uno più bello dell'altro. Si divertono. Ma come mai secondo te, Osvaldo, c'è questo... Ma perché alla fine la musica è un divertimento, uno sfogo, uno scarico psicologico, una forma di evasione, un antagonismo, cosa serve? Non a niente, praticamente. Ci serve questa possibilità di avere tre chitarre soliste, una più brava dell'altra nel gruppo, le prenderei volentieri. Benissimo. Ok, adesso facciamo una presentazione di un pezzo, così per iniziare, per aprire la finestra. Che pezzo hai scelto, avete scelto? Non so, sentiamo dal disco? Sì, dal disco. E dopo sentiamo, cominciamo a suonare. Hollow, allora, il primo pezzo. Il primo pezzo, assolutamente il primo pezzo, la traccia numero uno. Dopo ne parliamo, è un pezzo interessante, dall'apertura che va bene, l'apertura vostra denominazione di origine controllata, secondo me. Rock Wave, l'onda del rock. L'onda del rock. Quiet madness of thoughts now. Ok, come avevo detto è arrivato Stefano, buonasera Stefano. Eccomi qua, buonasera a tutti, scusate il ritardo, facciamo anche il bollettino, c'è nebbia fitta in provincia di Venezia fino a metà dell'autostrada verso Padova, quindi se avevate idea di uscire era una pessima idea perché potete ascoltare i rasti se stando a casa, oddio ci sono anche le autoradio, però insomma... Vi sconsiglio, ecco, fermi di all'autogrill aspettando che passi la nebbia con i rastis. È una bella immagine, sì. L'idea per un video, eh? Ah, sì. Abbiamo parlato allora del primo pezzo, abbiamo sentito il primo pezzo da disco, questo avvento californiano, Marco, californiano, cioè David Crosby e Jefferson soprattutto. Sì, mi piaceva a livello di sound più che di altro, sound, chiaramente. Perché quel giro d'accordi lì è molto David Crosby, lo ammetto, però soprattutto era il passo di questa canzone che è molto pigro. Cioè un pezzo a... Qualcuno, quando i primi che hanno sentito il disco, hanno detto avete messo come primo pezzo una canzone che non è proprio una delle più immediate dell'album. Ma a me piaceva far capire subito dal primo pezzo che noi siamo un gruppo anomalo. Ce la pigliamo comoda. Se dobbiamo fare una canzone di 6 minuti e mezzo, di cui 4 di assolo di chitarra, non è un problema, perché noi la pensiamo così. E Hollow, che è questo pezzo, ha quel passo lì, perché è un po' ripetitiva, spaziosa, un pezzo che ti accompagna, ti introduce all'ascolto. Poi diciamocelo quindi... chiaro, il pezzo potente d'apertura serviva quando la gente andava nei negozi di dischi e diceva mi fai sentire questo, e metteva sempre su la prima canzone, no? No, e questo è un dato di fatto, no. Allora uno sentiva la prima canzone e diceva una lagna, ma tutto il disco sarà così, no? E invece molte volte, infatti in molti dischi storici l'unica canzone veramente buona era la prima, oppure due nelle due facciate. Ma anche adesso col CD adesso praticamente tutti tendono a mettere i pezzi forti nei primi tre e poi dopo il resto è riempitivo, invece no, io ho ancora la mentalità dell'album. Per me questo qui è un disco che ha una facciata A e una facciata B. La facciata A si chiude con Not Enough Love e la facciata B si apre con Adam Raise the Cane. Cioè è un equilibrio d'ascolto a cui io sono legato ancora alla forma dei vinili, anche se questo disco è ben più lungo di un vinile perché dura 56 minuti. Sì, 56 minuti circa. Quindi è... sì, era un po' al limite, diciamo, sì. Col vinile. Sarebbe stato al limite. Però adesso, insomma, la promozione si fa mettendo i video su YouTube o su Facebook, dove sei attivissimo. Dillo. No, abbiamo gli ascoltatori, così video, possono... ne abbiamo un paio? No, forse anche... Sì, no, un paio. Abbiamo un paio di video. Questo album abbiamo un paio di video. Uno è il Razor Love con Mary Coughlan, con delle immagini prese dal concerto che abbiamo fatto l'estate scorsa a Spinone, e l'altro invece è Wild Dogs, che è la canzone che titola il disco, nella una delle primissime versioni live che abbiamo fatto senza Mary Coughlan, ahimè, la canto io, però al festival di Femarn. Senza offesa, ma no. È un po' dura. Però lì avevamo 15.000 persone davanti, quindi insomma, mi dispiace per Mary Coughlan che non c'era, quella volta lì no. A parte gli scherzi, un concerto favoloso, forse per ora il picco direi della carriera dei Rastis. Il festival di Femarn, che è diventato famoso perché nel 70, che era la prima edizione, suonò il suo ultimo concerto Jimi Hendrix. Quest'anno, o meglio l'anno scorso, cadeva il quarantennale, noi abbiamo avuto il privilegio, l'onore, il piacere di suonare il sabato sera come gruppo di chiusura del festival, e da quella ripresa c'è Wild Dogs che gira su Facebook, YouTube, eccetera. No, dicevo appunto che puoi invitare tutti a diventare amici dei Rastis su Facebook. È una forma di promozione molto immediata e anche economica. Sentivo prima appunto che Osvaldo rimarcava appunto la vostra attenzione anche a questo. No, attenzione è un corno, perché noi di economico e di tutto quello che ha a che fare col commerciale con i Rastis non c'entra nulla. Cioè noi siamo al di fuori di qualunque logica economica, commerciale, e non solo perché non ci interessa, perché anzi ci farebbe molto piacere poterci sostentare da questa attività. Ma perché seguiamo una logica che non è... Cioè noi seguiamo la logica del far musica e la facciamo come ci pare a noi. Abbiamo la libertà, anzi coi tempi di oggi, con la discografia morta praticamente, che, intendo dire le vecchie case discografiche che ti davano fior di milioni per fare i dischi, ma non esiste più questa cosa qua. Quindi abbiamo la libertà di fare quel che ci pare e non ci aspettiamo un ritorno economico, anche perché sennò sarebbero solo delusioni, perché anche quelli... famosi, quelli grandi, fanno fatica a arrivare a fine mese. Io sento di artisti conosciutissimi che sono lì che dicono vabbè, ma i dischi non se ne vendono più, quindi o fai concerti oppure... A proposito di questo, Dalla o De Gregori, erano molto contenti se arrivavano a 50.000 copie del disco che hanno fatto adesso. Sì, beh, loro, tutto il rispetto, chapeau per questi artisti, ma insomma è gente che ha successo da 40 anni, sì, questo è vero. Non si possono lamentare però, se alla soglia dei 70 anni cominciano a vendere un po' meno dischi, però hanno detto che lasciano spazio un pochino anche agli altri, perché comunque però, insomma, Dalla era uno che faceva 1 milione di copie a botta, adesso arrivare a 50.000 è difficile. Insomma, diciamo che può essere significativo di come girano le cose nel mercato discografico o in quello che ne resta come nelle macerie. Così tanto per allegrare un po' l'atmosfera potreste anche suonarci qualcosa, cosa dici Marco? Sì, cosa facciamo? Facciamo Wild Dogs e poi mettiamo quella del... cioè, prima la suoniamo in acustico così intima e poi magari la facciamo sentire quella del disco cantata da Mary Cochran. Sì, beh, in ci effetti si tratta, alla fine saranno come due canzoni diverse, per cui sì, direi che sì, l'accostamento ci sta molto molto bene. Allora, pronti? Sono i Rustis dal questa vivo Blue Radio Vera. Title track del nostro album in versione unplugged. Everybody gets along, they just sing the same bad song, twisting words in different ways. I know it pays. Everybody knows the price, but you cannot hide your eyes. Where does all the money fly when you lie? Oh, it really seemed to fit. New fancy suit, you're full of shit. When that makeup on your face, you're a thundering disgrace. We need a wonderful and peaceful revolution. This is a wake-up call, and it's ringing out for the nation. Wild dogs gather in the ditch while this TV nation falls asleep, ruled by a creep. While the people lose their jobs, all around it's dog eat dog. In the palace they just blow, it's the only job they know. It's such a mean and pitiful situation. When you fuck it all up and lie about our nation, we need a wonderful and peaceful revolution. This is a wake-up call, and it's ringing out for the nation. We'll be right back. veramente bellissima questa versione di Wild Dogs. mi chiedevo prima come sareste riusciti a farla, perché il pezzo poi la sentiremo, è un pezzo dal suono molto profondo, molto... Sì, è svuotata dal tribale ritmico sotto. È nata così comunque. Beh, immagino, se le canzoni... È nata dall'acustico. Comunque complimenti anche a Osvaldo, bellissimo da solo, insomma... Si sa che la chitarra acustica è sempre un po' più, come dire, a rischio. Non è a rischio, sì, non mente. Esatto. Acustico non mente. Esatto, avendo degli amici chitarristi mi hanno spiegato. È come il vino buono, non mente. Un mio amico americano mi ha detto che con la chitarra acustica sei senza rete. Eh sì. Mentre con l'elettrica, soprattutto quando c'è tanta distorsione. Sì, qualcosa ti nasconde. Anche tanta. Ti aiuta. Questo è forse il pezzo più diretto e politico che hai scritto come testo. Sì, è un pezzo che parla dell'Italia di oggi, o perlomeno come noi vediamo. Tra l'altro usa delle metafore che non sono neanche poi tanto metafore. Cioè, è molto diretto anche come linguaggio, perché i tempi sono talmente crudi che il linguaggio che li accompagna e li descrive è così. È una canzone strana, è una lunga storia che sta dietro questo pezzo, perché l'idea del testo... Allora, tutto stava nel fatto che Osvaldo aveva già da tempo un pezzo che si chiamava Licaoni, che fondamentalmente la musica era... simile a questa, comunque il passo era questo, si chiamava Licaoni, era un pezzo che noi già da tempo avevamo in mente, che prima o poi con i Rastis avremmo fatto. Poi l'estate scorsa o due anni fa, adesso non mi ricordo, c'è stato quel fatto di cronaca in Sicilia che un branco di cani selvatici randagi aveva sbranato una turista sulla spiaggia, una cosa veramente orrenda che mi ha colpito in maniera fortissima. L'ho vista quasi come una metafora di quello che stava succedendo all'Italia in questo periodo. Cioè, c'è un gruppo, ma qui si può dire qualsiasi cosa. Quasi. Ci invitate ancora dopo che spiego Wild Dogs. Allora, c'è un gruppo di persone, una casta di persone che ha deciso di farsi a pezzi questo paese, cioè proprio di sbranarselo e di papparselo. Come fanno i licaoni, che sono, non sono le iene, i licaoni sono proprio dei cani che attaccano in branco, scelgono la vittima più debole, che in genere o è il cucciolo o è quello ferito o è il più indifeso. No, ma attaccano anche gli gnu, sai. Attaccano perfino però gli gnu, sono molto certo. Democratici. Attaccano molto democraticamente tutti assieme, fanno correre la preda per chilometri, loro sono in grado di correre chilometri senza fiatare proprio, finché la preda è esaurita, spedita, e poi se la spartiscono democraticamente. Un perfetto esempio di democrazia. Proprio, ma pensate. Fa rima con simpaticoni. Però almeno loro hanno la sensibilità di mordere al muso, lo gnu gli paralizzano il sistema nervoso così non sente il dolore. Sono di una bontà. Sì, è un'immagine cruenta, ma è quello che volevamo dare con questo pezzo, perché quello che sta succedendo in Italia oggi è questo. Cioè, c'è un gruppo di persone che sta facendo questo. E il paese è anche paralizzato. Cioè, sì, il paese è proprio narcotizzato dalla televisione. Insomma, cioè, sappiamo, è utile. Se ti trovi la canzone Licaoni, l'88% degli italiani non aveva idea di che cosa fossero. I Licaoni? Insomma, io li ho sentiti nominare, ma non sono un esperto come Osvaldo. No, che è una canzone dovuta a Piero Angela. Vedendo proprio un servizio di Folco Quilici, magari. Sì. Guardando questa roba qui mi avevano colpito, perché corre chilometri e chilometri e chilometri senza bere, non hanno problemi di fiato, corrono e sono a mezzaluna, e se tenti di scappare a destra parte il primo, se a sinistra parte il secondo, sono tutti lì. Solo che poi hanno famiglie numerose, si spartiscono la carne, ognuno per cavoli suoi. Ho capito, quindi l'ispirazione ti hai avuto da quel momento? È venuta da lì. Ho capito. Poi il testo è stato leggermente modificato. È cambiato tutto, è rimasto significato politico. Certo. No, ma tanto la sua canzone originale, che risale ai primi anni 90, dipingeva uno scenario che era quello di quegli anni lì. Certo. Cioè che si vedeva il cittadino vittima dell'abuso di potere. Non è cambiato, non è cambiato niente. Non è cambiato niente. Stessa cosa. Questa è una cosa. Speravo che fosse una canzone vecchia nel testo. Invece. Musicalmente è una specie di suite da quasi 7 minuti. Sì, no, è lì perché ci piace improvvisare. Però c'è da dire una cosa, adesso la dico in diretta. Vai. Osvaldo ha il pregio che quando fa un assolo su un pezzo diventa l'assolo del pezzo, cioè non è più un'improvvisazione ma diventa un passaggio obbligato. Quando abbiamo fatto Wild Dogs in studio, l'assolo che lui ha tirato fuori su Wild Dogs è diventato l'assolo del pezzo. Ho capito. E noi suonandolo l'abbiamo seguito, insomma la canzone si è strutturata in quella maniera lì, e adesso ogni volta che la suoniamo dal vivo poi si dilata, cose, ma il come dire, il fraseggio, l'esplosione strumentale che c'è alla fine del cantato è diventata quella, cioè è quasi una partitura scritta anche l'improvvisazione. Ok. E quindi ci dispiaceva tagliare il pezzo a 4 minuti quando avevamo una coda strumentale fino a 7 minuti e passa. Infatti Mary Coughlan te l'ha chiesto, ma come mai avete cambiato il pezzo alla fine? E poi lui, Marco, gli fa, perché a noi piace suonare, ci divertiamo. No, ma poi è un pezzo che nel ritornello invoca una rivoluzione pacifica e meravigliosa, si intende. Ma ci piaceva avere quel momento lì in cui il pezzo scivola via, cioè succede qualcosa che... Succede la rivoluzione. La dedichiamo a Mubarak, così stiamo... Oggi, sì. Se ascoltiamo adesso la versione appunto dell'album, che è appunto dal titolo Wild Dogs dei Rustis, e vi ricordo che questa è sempre Blu Radio Veneto, state ascoltando Rockwave. Rockwave, l'onda del rock. L'onda del rock. Yeah. Blu Radio Veneto Rock. Fino all'ultima goccia, questa è la tradizione di Rockaway, fino all'ultima goccia, fino all'ultimo secondo, che così, deve essere così. Sì, anche perché giustamente questo è un pezzo che ha senso così. Sì, ci va tutto. Come dicevi tu, no. è un inizio, una parte centrale e una fine. Siamo, non so, non è proprio una suite, però è un pezzo, diciamo, sulla scia di certe cose di Neil Young, tanto per citare un nome che ricorre spesso con voi, nei quali brani nei quali l'assolo di chitarra non è il momento di esibizione del chitarrista, ma è una parte importante della canzone. E fra l'altro, sì, immagino un brano che si presta molto bene a essere suonato dal vivo. Sì, in questo momento è anche uno di quelli che ci viene meglio, cioè è il pezzo forte, cioè il pezzo dove ci divertiamo di più e dove ci lasciamo andare. È uno di quei pezzi che sembra fatto su misura per noi, cioè nel senso nessuno fa fatica a suonarlo, cioè, ci viene facile. E Mary si è innamorata pazzescamente di Mary questo subito pezzo. Appena l'ha sentita, quella famosa sera lei era venuta in Italia per registrare con noi altri due pezzi. E poi per una serie di eventi la sera prima delle registrazioni è saltato fuori un concerto che abbiamo fatto con lei ospite, con Andy White, con Cristina Donà, quindi noi eravamo un po' la band di casa che accompagnava tutti questi, e lei quando ha sentito questo pezzo il giorno dopo ha detto: ma io voglio cantare quella canzone lì, è meravigliosa. Poi gli piaceva il piglio battagliero e sì, non è molto timida Mary, no, l'avevo conosciuto. Poi ci sono dentro un paio di parolacce nel testo e lei le dice proprio con grinta, piena, proprio ruggente irlandese puro sì. Sangue non si smente, non si smentisce. Visto che stiamo parlando di stranieri, prima fuori onda si accennava al vostro come si può dire, il fatto che state andando fuori Italia con una certa regolarità, e non è una cosa così banale per i gruppi italiani. No, sì, si sta stabilizzando una situazione interessante in Germania, dove negli ultimi 3 anni siamo andati già 5-6 volte, ci torniamo a febbraio, a marzo, ci torneremo anche a maggio. Allora la domanda qual è? Perché in Germania sì, qua si stenta? Come avete fatto? Perché molti gruppi italiani trovano un muro letteralmente fuori dai nostri confini, o magari fanno un concerto a Lugano, ecco che... È brutto parlare male del proprio paese, ma di fatto la situazione è questa, che in Germania, almeno per la nostra esperienza, abbiamo trovato le persone che hanno capito quello che facevamo, che hanno capito che era una cosa di valore e che ci hanno dato una mano a diffonderle, a portarle avanti. E tutto ciò dice: beh, perché in Italia non succede? Ma perché in Italia già un gruppo che canta in inglese viene visto come una cosa un po' snob, mentre in realtà in qualsiasi altro paese del mondo, e non parlo solo dei paesi anglofoni, ma in qualunque paese del mondo, uno che canta in inglese è normale, perché quasi tutti capiscono che Björk canti in inglese non è un fatto strano, eppure lei è islandese, cioè voglio dire, gli Scorpion, è solo in Italia che c'è questo retaggio. Gli Scorpion tedeschi hanno riempito gli stadi del mondo cantando in inglese. Esatto, quindi sì. È proprio una cosa che sul rock specialmente è un retaggio che rende l'Italia provinciale e arretrata rispetto al resto del mondo. Al di là del fatto che per noi non è tanto una scelta, come dire, perché insomma fa figo cantare in inglese, ma perché a me cioè ci vengono le canzoni scritte in inglese. Io non sono capace, ecco, mettiamola così allora, io non sono capace di scrivere in italiano. E mi sta bene di scrivere in inglese, perché visto che comunque tutti dicono: ah sì, ma voi fate una musica che tutto sommato è una musica di nicchia, e allora a questo punto è meglio avere una nicchia sparsa in tutto il mondo, tante piccole nicchiette qua e là fanno di più che una nicchietta. Ma poi i tedeschi hanno ancora, abbiamo notato, hanno la cultura proprio dell'ascolto, anche nei locali si siedono e ascoltano, e quindi è un atto di civiltà. Qui da noi è impossibile, suoni in acustico in un locale: ciao, come va? Ciao, dai due birre per favore. Sì, così, sì. Là abbiamo visto Steve Wynn una sera, non servivano da bere durante l'esecuzione del pezzo. Sì, vero. È un rispetto nei confronti dell'artista, ma per dire, nei locali, allora quando vai a suonare in Germania, adesso tecnicamente, cioè il locale non è che ti corrisponde un cachet prestabilito. prendono all'ingresso, alla porta, una cifra stabilita, che è quel cosiddetto biglietto, ma non è proprio un biglietto, è proprio un, come dire, beh, chiaro, nei concerti grossi c'è il biglietto e tutto quanto, ma i concerti nel circuito, diciamo, minore, gli avventori sono ben lieti di dare 5 o 10 euro, quello che è stabilito, per il gruppo. Questo significa che se hai 100 persone nel locale, a 10 euro sono già 1000 euro. Che è... Da noi non c'è questa cultura, perché la musica viene talmente svilita e ridotta a contorno, a sottofondo o a, come dire, tappezzeria per la televisione, perché anche in televisione la musica zero. Viene trattata esattamente sì. come funzionale all'intrattenimento televisivo e non funzionale alla valorizzazione della musica. E questo ha contribuito a un improverimento culturale nei confronti della fruizione della musica dal vivo, e stiamo solo parlando di quello. Per esempio. Cioè, una volta c'era chi diceva che la musica doveva essere gratis, giustamente la risposta era: e i musicisti devono vivere d'aria, perché non si riesce a capire. Ma io lo dico sempre quando mi dicono: regalami il CD, guarda, fai così, dammi 12.000 euro che è il prezzo che ci è costato farlo, e dopo te lo regalo. Magari fosse costato solo 12.000 euro. No, per dire, insomma, mi dai 1.500 euro per la chitarra che ho speso, 1.400 per l'amplificatore e 25 euro al mese per le corde, e dopo vediamo come... Da sì, qualcuno... non pensano, non certo. Sembra tutto dovuto. Ma tu che lavoro fai, il musicista? Ah no, ma dico, ma di lavoro? No, dico, cosa c'è di strano? Cioè, se uno vuol fare le cose belle deve dedicarsi anche a farle. Sì, cioè. Perché qui al nord c'è questo concetto del lavoro che o sei muratore o sei meccanico, elettricista, ma ci sono altri lavori. A Bergamo, se dico che lavoro fai, lavoro al computer, e sei un lazzarone. Non è, no, deve essere qualcosa di fatica. Sì. No, invece no, io bisogna rispondere: ma i computer li trasporto a spalla. Trasporto computer. No, parlando al discorso di prima, siamo andati a vedere i Goof to Mule a Milano l'ultima volta. Ci abbiamo fatto caso che c'è un pubblico fino ai 25 anni e dai 40 in poi, mancano quelli da 25 a 35. Non so come mai. Anche fino ai 40. Anche fino ai 40. Ma sono o ragazzini o dei 40 in poi. È il buco culturale di quei 15 anni, sì. Di quei 15 anni che nessuno ci ridà indietro. Questa è la cosa triste. Questo è chiaro. Ce ne ci ridiamo sopra. Va. Pensi che siamo... Facciamo un pezzo, dai. Ora facciamo di Not Enough qualcosa. Love, che è una canzone che si presta a questo argomento, perché è una canzone che dice che non c'è abbastanza amore. E quindi... Una canzone che abbiamo scritto con Andy White. Almeno parte del testo è stata scritta assieme a Andy White. Pronti? You give. This is the way lovers play. They put their feelings on the line, and when it's over, nothing's fine. 'Cause not enough love is enough to love. You love. From tender feelings to disgrace, when your words begin to hurt, there ain't no healing kiss or pill. 'Cause not enough love is enough to love. 'Cause not enough love is enough to love, to live. What have you got to give? You think right now you can get enough love waiting for true love, but it's never enough. Thank you. take. You put your feelings on the line. You've got to love to burn. So when it's over, you will learn that not enough love is enough to love. Cause not enough love is enough to love, to leave. What have you got to give? You think right now you can get enough love waiting for true love, but it's never enough. But it's never enough. But it's never enough. There's not enough love. Che cosa c'è da dire? Grande Osvaldo Ardei, che ha fatto una colorazione al pezzo meravigliosa, e Marco t'ha seguito poi. Come mai questa colorazione al pezzo, Osvaldo? Sono cose che vengono a seconda dell'atmosfera che lui parte, perché io seguo molto suo umore. Quello suo, praticamente. Quello suo, sì. Io, è un pezzo, quando poi comincia così, io so dove va a parare. E poi sono, tornando prima al discorso che faceva Stefano sull'acustica, sì. Sono sempre stato un patito della chitarra acustica. Mi è sempre piaciuta molto, ho cominciato con Crosby, Stills & Young, poi ho ascoltato molto Cal Conan, David Bromberg, Norman Blake, e quindi ho sempre avuto questa passione. La chitarra elettrica l'ho comprata la prima volta che ho sentito Rory Gallagher. Ah! Allora lì ho detto a mia madre, dammi 300.000 lire. All'epoca, come mai voglio comprare una chitarra elettrica? Beh, capita a fagiolo questo discorso, allora. Nell'album c'è proprio una canzone che si chiama O Rory, che è dedicata a Rory Gallagher, certo. Che ha scritto Osvaldo insieme a Andy White, e che racconta proprio quello che sta dicendo adesso. Ho comprato la mia prima chitarra la prima volta che ho sentito il canto di Rory. Magari la sentiamo subito, perché quello è un pezzo che ha un arrangiamento piuttosto elaborato, no, più che elaborato, ricco e lussurioso, mettiamola così, cioè, lussureggiante. Non volevo dedicarlo a parlare di Rory col suo stile, perché non è impossibile, lui esatto. Era lui. E quindi abbiamo, siccome ho finito anche un po', ho visto gli ultimi video suoi così, era finito un po' malamente, insomma, con la salute, e allora mi è venuta sta cosa anche un po' triste, però diciamo, se suono la chitarra elettrica è grazie a lui, visto che è esistito, approfittiamo per ringraziarlo. Certo. Allora ci ascoltiamo questo brano che si intitola Oh Rory, sempre dai Rusties. Rock Wave, l'onda del rock. I bought my first electric guitar soon as I heard Rory sing, and I smoke a whole packet one afternoon on a street corner waiting for him. I was stranded at the Rolling Stone summer 83 when he reached out his hand to me. Oh, got folk in the touch of your guitar, blues deep in your soul. Though the devil was in the glass, your heart's in rock and roll. Oh, Rory. Oh, thank you. so long ago when I said, oh Rory, now tell me your story. Sì, Alberto, che è il nostro fotografo ufficiale per stasera, veramente mi ha portato un biglietto. E c'è stata Agnese da Brescia che ha scritto, che ha detto che forti loro, forti voi, keep on rocking. Beh, una bellissima cosa. Siamo noi. Grazie Agnese. Se sei l'Agnese che diciamo noi, penso che sia lei, no? Dolce Agnese. Noi non abbiamo molte fan che si chiamano Agnese Brescia. Ce n'è una, quindi probabilmente sicuramente lei. È lei. Una cara amica, e salutiamo e gli mandiamo un bacio. Abbiamo ascoltato questo pezzo, Roy, che comincia in maniera molto, molto semplice, poi come dicevi appunto l'arrangiamento cresce, si sente un grosso lavoro dietro. Gallagher è veramente un musicista di culto, perché in Italia aveva un seguito, non so neanche se ha mai suonato dal vivo in Italia. Sì, aveva suonato già nei primi anni 70 alla Vigna. Ero troppo piccolo. Poi l'ho visto nell'83-84, credo, a Rolling Stone di Milano. Trio pazzesco. Il codice del concerto. Me lo ricordo, sì, perché ne sono uscito. È venuto giù un mio cugino e ha detto: un chitarrista blues. Ma sai, io sono più per l'hard rock. Sono arrivato giù, c'era pieno di gente con i giubbotti da metallaro. Ma però lì, sai, nell'80 aveva già fatto Stage Struck e lì ha sfiorato il metal. Perché Rory Gallagher aveva questa caratteristica, era capace di suonare il rock anglosasso e tosto, il blues elettrico, il blues acustico e il folk. Era a 360 gradi un grande chitarrista, ed è stato il concerto sotto l'aspetto di violenza sonora il più violento che ho sentito, per essere un trio pazzesco. È una cattiveria di suono, ma era poi generoso, chitarrista generoso, non con l'orologio. Ha fatto bis, mezz'ora, tutti rock and roll uno dietro l'altro per mezz'ora. Fino all'esaurimento, finché ce n'è. Ma lo diceva anche Jerry McEvoy, il suo bassista, che a volte si inoltrava in situazioni a costo di sbagliare, more, finché il batterista Ted McKenna ha detto basta, non ne posso più, aveva le vesiche sulle mani. C'è un batterista metal che dice basta, vuol dire che... No, poi al di là comunque è stato un grandissimo musicista, secondo me. Ma in Irlanda poi c'è un vero e proprio culto, venerazione, perché era una persona veramente molto ben voluta dal... dal pubblico e dal, insomma, una bella figura del rock, mettiamola così. Ma poi era un buono, ma leggevo anche che quando raccomandava sempre di tenere bassi i prezzi dei biglietti e dove non potevano per la capienza lui abbassava il cachet, e quindi era un grande sotto tutti gli aspetti. Non sarà mai diventato ricco, insomma. Sì, però faceva poi, suonava molto dal vivo. Girava sempre in continuazione. Sì. L'Irlanda ricorre, appunto, ritorna Mary Coughlan, Rory Gallagher, sì. Andy White. Andy, no, White. Perché sono frequentazioni. Gli irlandesi sono molto simili agli italiani, tutto sommato. Sono di indole molto aperta, molto. Sono stati sbranati molto bene anche loro recentemente con la, sì, con la crisi Caoni, delle hanno banche. Sentito, hanno trovato un motivo di identificarsi. Forse erano pesce cani, essendo un'isola. più. No, l'Irlanda ha avuto. Va bene, non possiamo parlare della situazione irlandese, no. Mi sembra fuori tema. Però abbiamo finito, specialmente con questi artisti, abbiamo avuto dei bei momenti. Insomma, sono amici, ecco, mettiamo. È vero che molte volte ho avuto modo di parlare con gli irlandesi e dicono sempre che si trovano molto a loro agio in Italia, per ragioni un po' climatiche forse, anche perché. Ho anche così un aneddoto personale, io ho visto gli U2 la prima volta che sono andato in Italia nell'84, inizio 85, eravamo in 3.000 a vederli, e Bono cominciò il concerto con 11 o'clock TikTok, che non è propriamente una delle canzoni più famose, e tutti i 3.000 cantarono in coro, lui si fermò e dopo disse: ma siamo sicuri che siamo in Italia? Perché erano veramente sinceramente stupiti, no? E appunto disse: questo è un paese dove penso che torneremo spesso e volentieri, perché avevano trovato questa comunanza che ho sentito citare da tanti altri irlandesi. Uno mi ha detto che è perché abbiamo una storia di emigrazione, però gli ho fatto presente in America, no? Ma gli ho fatto presente che in realtà dal nord Italia non è che andassero poi in tantissimi a New York, era più il meridione, mi pare anche una spiegazione un po' così tirata per i capelli. Ma secondo me è l'indole che hanno loro, sono diversi dagli inglesi, sono diversi dagli scozzesi. Io sono stato su in Irlanda, sono molto ospitali, molto divertenti, curiosi. Mi sono trovato benissimo con gli irlandesi. E poi c'è da dire, qui da noi molti musicisti irlandesi hanno trovato un grande successo. Mi ricordo i Waterboys negli anni 80 in Italia avevano un seguito, un culto veramente fanatico, qui i qui presenti. Beh, erano un gruppo straordinario comunque. Beh, ma sì, veramente ha fatto tre dischi eccezionali e ingiustamente dimenticati. Quando si parla degli anni 80 si pensa sempre che sia sempre stata solo musica di seconda scelta. In realtà negli anni 80 i Waterboys erano... Tu stai tirando fuori uno dei miei cavalli di battaglia. I Ram hanno fatto le cose migliori in quel periodo. Però mentre questi... Automatic for the People del 90, se non mi ricordo male. Sì, però... Vabbè, ok. Reckoning dell'84. Cioè... Sì, no, negli anni 80 ci sono stati gli Smiths, ci sono stati tantissimi grandi gruppi. Quello che non ho mai capito... Specialmente britannici o irlandesi o da quelle parti lì. Ma anche Springsteen negli anni 80 ha fatto due o tre dischi eccellenti, The River, Born in the USA, comunque. Ma si vede che l'ufficio stampa degli anni 80 è scarso, secondo me, perché quando si ricordano gli anni 60 si ricordano i Beatles, Hendrix, i Rolling Stones. Se si guardano le classifiche degli anni 60, in classifica andò anche tanta porcheria. Negli anni 70 idem, ci ricorda delle Zeppelin, esatto. Ma non di certi gruppi infami che la scuola di adesso fa venire i capelli dritti. Degli anni 80, che sa perché, il revival degli anni 80 si seleziona accuratamente il peggio, gente che passava il tempo dal parrucchiere, non facciamo nomi, e grandi musicisti che c'erano, chissà perché. Beh, l'underground americano degli anni 80 è stato strepitoso, dai Thin White Rope ai Dream Syndicate, i Pixies, i Pixies forse già negli anni 90, i Green on Red, i film White Rope, cioè. Qua Marco mi sta facendo dei strani segni che però non sono in grado di decifrare. Forse sta dicendo che è ora di Pixies. 87, quindi un cultore dei Pixies a tutto praticamente di quella band. È Nick Cave, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Così come anche voi avete solo l'imbarazzo della scelta nel vostro ampio ma già noi, anche noi suonavamo già negli anni 80. Cioè, lui poi era già fermato nelle valli bergamasche con la sua Moss Band. Ci potete garantire che non eravate New Romantic, no, che non avevate chiome stravaganti? Non ero normale. All'epoca eri normale, detto da te sulla sinistra, esteticamente normale. Ci costringi quasi a chiederti cosa è successo dopo. Dopo mi sono moderato. Agnese ha scritto che quello. Ci confermano che Agnese sei tu e ti ringraziamo per seguirci anche. Perfetto. Non so, facciamo la fine di Mario Pastore, mi dicono che non è vero. Questa la capiscono solo quelli da una certa età in poi. Sì, dicevo, nel vostro ampio repertorio. Cosa facciamo? Facciamo un altro pezzo? Certo. Tipo Hard Dreamers, può andare? O Rotten Track, cosa preferisci? Come vuoi. Hard Dreamers, dai. Questo qui è il pezzo che idealmente chiude l'album, poi in realtà c'è una bonus track, però il pezzo conclusivo è questo, ed è una canzone che parla dei... Voglio fare una spiegazione, perché capita di rado di poter spiegare le canzoni, allora lo faccio. Qua si fa sempre, per ogni caso. Mi è capitato quest'estate, ero in vacanza, e ho letto un articolo in cui, non mi ricordo chi l'aveva scritto, un articolo ben fatto, tutto sommato, dove però si dava una connotazione negativa all'idea del sognatore, del sogno. Cioè, come dire, sì, sono i sognatori, in fin dei conti è gente che sta lì, pensa, vive nel suo mondo, ma... Cioè il fare, il costruire, il produrre. E questa cosa qui a me è suonata veramente brutta, perché se pensiamo che tutto quello che esiste da questo tavolo, alla radio, alle automobili, e sono tutto frutto di un sogno, perché prima deve... è qualcuno che... C'era una canzone bellissima di Peter Gabriel sull'album So, che parlava tutto quello che vediamo una volta era sogno di qualcuno. Quindi il sogno è quello da cui parte tutto. Da lì poi pensavo, John Lennon diceva, potrei dire che sono sognatore ma non sono l'unico. Allora dico, ma noi siamo gli unici a questo punto, che siamo gli unici sognatori rimasti? Mi sono fatto questa domanda e mi è venuta questa canzone che si chiama Hard Dreamers, che vuol dire sognatori duri, sognatori veri, cioè quelli incalliti, insomma. Hard dreamers come along, their well is never dry. Hard dreamers with a song, dream harder to survive. See how we die to their eyes, see how we fly into their soul. We glide till we walk down the line and fall over the line and see how we fall. Heart-pounding worn guitars, hard dreamers chase the stars like sailors all their lives. Hard dreamers kiss the skies, see how they fly for your eyes. See how they die, into your soul they glide. And they walk down the line and fall over the line. And see how they fall in love. See how they fall. Dreamers, questo è il titolo di questa canzone è un bel esempio di come funziona bene l'inglese, perché in italiano dura, cioè sono sognatori sul serio. Sono... Sì, sarebbero sognatori duri, ma duri però non si adatta a sognatori. Ma è bella anche questa cosa. Tra l'altro c'è un riferimento ancora ai Waterboys qui, perché avevano fatto un album che si chiamava Dream Harder, se tu sì, ti ricordi. Sì, sì. Che mi piaceva molto come concetto del sognare più forte, sì, quelli, sì. In quel senso sarà un sogno più efficace, quello esatto. Che è più irreale ed è un sogno standard, diciamo. Mi è venuto in mente un altro grande gruppo degli anni 80, i Dexys Midnight Runners, grandiosi. Non c'entra, stiamo facendo una specie di trivia a questo punto. Parlando un attimo del disco, visto che siete qua per fare promozione, vi ricordo i vostri doveri commerciali, appunto, di fare, cercare di far conoscere di più l'album. È un disco, come ti avevo detto, già l'ho trovato molto più vario. C'è, ad esempio, questo brano Lose My Love, che non so se potete farlo con le chitarre acustiche. Ma... Sì, volendo, sì. No, sono più ridotta, al limite. No, però forse vale la pena di sentirlo l'originale, sì, perché è un pezzo che si stacca molto, direi, da qualsiasi altra cosa che avete fatto. È una, così, un'anticipazione di strade che volete intraprendere o una no. Divertissima... No, noi ragioniamo molto sulle singole canzoni, cioè quando nasce una canzone, io almeno penso, cerchiamo di dargli una forma che è la più adatta alla canzone. Lose My Love, sin da principio, io la pensavo come una canzone alla Doobie Brothers. È presente? Ma il Doobie Brothers ultimo periodo, quando avevano preso un po' quella virata funk, quando c'era Michael McDonald nel gruppo, eccetera. Quindi dove sentivi dentro la California, i cori, quella solarità tipica di quel rock lì degli anni 70, ma già virava verso territori quasi funk. E, è un pezzo che è nato così, cioè non è che cioè nel momento in cui mi è venuta questa sequenza d'accordi, questa melodia, questa cosa, sarebbe bello farla come l'avrebbero fatto i Doobie Brothers nel 78. E noi quando l'abbiamo messo a suonare abbiamo detto quel pezzo qui va fatto così, perché è questa la sua identità, e siamo contenti di come è venuta. Si discosta un po' dal nostro solito canone, ma a me non piace neanche l'idea di essere chiusi in un canone. Cioè noi siamo stati per 10 anni una tribute band dedicata a Neil esatto. Young, che io adoro e adoro tuttora con tutto quello che fa Neil Young, e se fosse per me andrei in giro a suonare Neil Young sempre, perché è una, le canzoni, la cosa, cioè, è inutile che stia qui, è una cosa che mi sento, che mi piace. Eppure quando hanno cominciato a dire ah sì, voi siete quelli che fate Neil Young, ma... dopo un po' comincia a venirti stretto, perché dici no, ma noi possiamo fare anche altre cose, certo. E quindi Lose My Love è una canzone nata così, quindi non è uno sviluppo futuro, Anzi, ti dirò che noi ultimamente ci siamo resi conto che comincia a piacerci molto fare le cose lente, cioè un po', o comunque d'atmosfera, o cercare più la sfumatura piuttosto che l'impatto, o il pezzo alla Crazy Horse, che comunque ancora adesso il più aggressivo della band sono io, anche se sono il più anziano. Ma in questo pezzo c'è un po' di Barry White, però. No, sì, cioè, beh, oddio, nel momento in cui ti metti a fare funk, poi i capisaldi sono quelli. La citazione di Andy White sono quella sezione d'archi che entra, sì, a metà pezzo, che era un break dove proprio c'era il tunz tunz tunz, proprio tipico da discoteca anni 70. E mentre eravamo lì a mixare il pezzo, vedete, ma qui ci sta l'orchestra proprio alla quasi morriconiana, ma con quella, come dire, con la cavata degli archi proprio. Abbiamo fatto 30, esatto, diciamo. Quindi la mettiamola qui. Già noi ci vedevamo col video, abbiamo pensato a un videoclip che era una parodia dei videoclip dei rappers americani, sai, quelli che arrivano, sì, con le catenazze, le Porsche, le macchine, tutta di raso gialla, esatto. Pensavamo a noi conciati in quella maniera lì, in una parodia. Sono poi l'unico dei cinque che si abbronza, sono io. Il problema è che poi avremmo capito la parodia solo noi e avremmo riso solo noi di questa cosa, quindi non ci siamo mai messi a farlo. Poi è stato anche il fonico, a un certo punto, scherzando, ci ha messo la batteria da dance e ho cominciato a ridere, lasciala, dai che la lasciamo, e da lì è un po' burlona anche sotto quell'aspetto. Però è un pezzo che se io andassi in discoteca regolarmente mi piacerebbe sentire una canzone così, cioè mi piacerebbe sentire alla radio. Cioè, per niente è stato scelto come singolo. Sì, è la mia idea della canzone perfetta per il Festival Bar, questa. Se esistesse purtroppo ancora. Non esiste più. Purtroppo siamo fuori dal tempo, infatti il pezzo lo dice, la mia mente è un tantino fuori dal tempo. Beh, allora ascoltiamolo questo. No, magari accendiamolo un pezzettino così e poi dopo la sentiamo dal disco. Ok. Giusto per far capire come è nato il pezzo e come è diventato poi. Aspetta che mi levo questi che mi affastidiscono. Ok. Sta parlando della cuffia, sì. Non è che si sta togliendo dei vestiti o cose del genere. Touch the night, cause when I became a man, it was hard to take this fight. In my life I had a lot, but the greatest push of all, it was music. I don't wanna see the guns cast their shadows on the sun, cause all their dirty words cannot damage our love. After all, nothing is cheap, but those feelings from the deep we call music. When it spreads around this crystal sound, losing your soul, it seasons as you do. I don't want to lose my love, I just want to use my love. Ooh. not, but the greatest push of all, it was music. I don't wanna see their guns cast their shadows on the sun, cause all their deadly words cannot damage our love. After all, nothing is cheap, but those feelings from the deep we call music. When it spreads around this crystal sound, losing your soul it's easy to do. Ooh. I don't want to lose my love, I just want to use my love. Has the power to turn dreams into a flower like this music. So when the beat stirs up my heart, the right thing becomes easy to do. Blu Radio Veneto Rock. Allora, questa era Lose My Love. Non abbiamo moltissimo tempo, quindi adesso i Rustis, Marco e Osvaldo, ci canteranno subito un'altra canzone che si intitola This Rotten Track. Thank you. changing, you must be learned that your living comes from dealing, silent grieving and forgiving, not believing this rotten trap. Drill your planet, pierce your mother, your income rating is growing higher. Now sweep disgrace from your face and leave this world a better place. There's no turning back, no returning back from this rotten trap. Won't you save yourself and your children's path from this rotten trap? Land made amends for their senseless plans. Now sweep disgrace from your face and leave this world a better place. There's no turning back, no returning back from this rotten trap. Won't you save yourself and your children's path from this rotten trap? There's no turning back, no returning back from this rotten trap. When you trade away all your children's days in this rotten way, with Rotten Track. Noi solitamente finiamo con un pezzo dal vivo, ma questa sera faremo un'eccezione perché Marco vuole assolutamente fare ascoltare a tutti la bonus track dell'album, che è Razor Love, un brano di Neil Young cantato, sì, in questa occasione. Sì, prima volevo segnalare le tre date che facciamo qua in zona, in Veneto. Noi settimana prossima suoneremo con tutta la band, quindi veri concerti dei Rusties al completo, giovedì 17 a Cessalto al Petit, un locale si chiama così, il venerdì 18 a Fossalta di Portogruaro alla birreria Accademia, e sabato 19 a Mareno di Piave all'Inverness The Corner Live. E lì sarà proprio la presentazione ufficiale dell'album. Sono la data meno 1, la data 0 e la data 1 è quella di sabato 19. Sempre in zona Piave, sapete lì si beve molto. Sì, siamo qui nel raggio di 30-40 km. Se siete del posto, potete darci qualche indicazione. Con i microfoni chiusi, perché sono notizie riservate che non possiamo divulgare proprio così facilmente. Comunque sul nostro sito MySpace si trova tutte le date, speriamo di vedere numerosi, accorrete numerose, si dice. Ah, tra l'altro una cosa, no, ci tengo a dire, chi compra il CD da noi direttamente, cioè o ai concerti o tramite mail eccetera, riceve in omaggio un fantastico libretto coloratissimo con tutti i testi e tutte le traduzioni in italiano delle nostre canzoni, così più nessuno dice ma cantate in inglese non si capisce quel che dite. Quindi, però è una cosa che ci teniamo molto, perché è un libretto. E oltretutto abbiamo... la traduzione italiana sarà sensata, perché è stata fatta dagli autori, quindi, mentre a molte non volte ci sono manipolazioni. Essendo viventi gli autori, esatto, non c'è stato bisogno di un traduttore. Vivi e veggi, alive and kicking, sì, proprio. No, dicevi che si chiudeva con un pezzo dal vivo la trasmissione. In effetti, la registrazione di Razor Love che ascoltiamo adesso è una take in studio, ma presa diretta, cioè una take dal vivo della registrazione proprio. Ed è un pezzo su cui è nata la collaborazione con Mary, che lei inizialmente voleva incidere questa canzone di Neil Young per un suo progetto, e noi abbiamo detto, beh, ma se non chiami noi a suonarla, chi meglio di noi? E infatti da lì poi è nata questa collaborazione. Siamo, per me è un sogno sentire questa canzone cantata da Mary Coughlan e per di più suonata da noi, cioè è una cosa che fino a un anno e mezzo fa non ci avrei mai nemmeno creduto o pensato. Bene, allora con questo brano Razor Love, che vi ricordo fa parte dell'album comunque come bonus track, ma la trovate nel disco Wild Dogs dei Rastis, che appunto da lunedì sarà ufficialmente in distribuzione e vendita. Noi chiudiamo questo appuntamento con Rock Wave, certo. Sono sempre felicissimi di aver potuto offrire ai nostri ascoltatori della musica dal vivo, poi con in anteprima assoluta con Marco Osvaldo le cose scorrono come l'acqua di fonte. Grazie a voi per l'invito, è sempre un piacere venire a parlare e a proporre la propria musica in radio, e siete tra i pochi che lo fanno, insomma. Quindi... grazie, siamo orgogliosi di questo. Ricordatevi appunto giovedì, venerdì e sabato nella zona fra Porto Gruaro, Fossalta, ecco, ci sono questi tre locali dove ci saranno tre occasioni per vedere dal vivo i Rastis, quindi non mancate. Vi lasciamo con la voce di Mary Coughlan. E lunedì ci sarà un'altra musicista, ci sarà Patrizia Laquidara, che presenterà in diretta dal vivo in dialetto veneto il suo nuovo album che è uscito lunedì, che esce lunedì. Allora? L'ora 22:30. Ecco, perché io non ci sarò per questo lunedì, però non, anzi ci guadagnate probabilmente. Buonanotte a tutti, allora dai Rastis. Ciao, buonanotte a tutti. Buonanotte. Ciao, grazie. E da noi. Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. To bet that your old man became fascinated with his own plan. He turned you loose, your mama too. There wasn't a thing that you could do. I got faith in you. It's a razor love that cuts clean through. I got faith in you. It's a razor love that cuts clean through. You really make my day with the little things you say. Looking through the window at a silhouette, trying to find something I can't yet. Imagination is my best friend. Gotta look out for the greedy hand. Make a living like a rolling stone. On the road there's no place like home. Silhouettes on the window. Flicker like that. Tell me, baby, how'd you get the knack? You came to me with open arms, and I really took you down the track. All I got for you is a razor love that cuts clean through. All I got for you is a razor love that cuts clean through. You really make my day with the little things you say. I'm looking through the window at a silhouette, trying to find something I can't get. Imagination is my best friend. Gotta look out for the greedy hand, greedy hand. May I live in like a rolling stone. On the road there's no place like home. Silhouette on the window. You really make my day with the little things you say. You really make my day with the little things you say. You really make my day with the little things you say. With the little things you say.